7 minuti, dai, ministri, da paura, per carità, stigmate. Questa canzone ce l'ho particolarmente in testa sto periodo perché ho riscoperto nell'automatico di Radio Onda Rossa. No, perché ho riscoperto un grande classico del cinema di fantascienza semi sconosciuto che doveva essere una risposta a Terminator, che era Hardware, che però tutti pensano che il primo tra virgolette horror rock della storia sia Il Corvo, cioè il primo film in cui nella storia del cinema la colonna sonora griffata tra virgolette diventa il carattere dirimente del film. Invece prima del Corvo, che è del 95, abbiamo questo film Hardware, che è un incrocio tra queste atmosfere cupe molto alla Blade Runner e Terminator, di cui sicuramente avranno preso dei pezzi dell'audio animatrone di Terminator, dove praticamente ci stanno tutti, dai Field of the Nephilim, che ci recitano pure, a Johnny Rotten, con, però non con i Sex Pistols ma con i Public Image Unlimited, un divertentissimo cameo di Lemmy the Motorhead che fa il tassista in questo scenario così apocalittico, molto cupo. Detta così potrebbe sembrare una trashata, invece è un film grandemente sottovalutato che ci parla poi tra l'altro dell'automazione della guerra, perché il protagonista è questo drone, il Mark 13, che sfugge al controllo e si anima da solo e comincia a uccidere amici e nemici indistintamente, che è un po' più o meno quello che stiamo vedendo oggi sui campi di battaglia in tutto il mondo. Allora, 87.9 della modulazione di frequenza Radio Onda Rossa e 25 o'clock, la trasmissione più sghemba dell'etere, cioè senza assolutamente filo conduttore. Assolutamente. Siamo partiti così de getto senza spiegarvi. Vabbè, ma nulla, perché non è che mi porti sul cinema, io sì, no, straparlo. No, ma che ci frega? Sì, sì, ma non è, no, però è così, nel senso che poi alla fine non è che dovete pensare che venendo in questo spazio, perché ci siete venuti voi, non è che, cioè, no, io anzi ormai sono diventato un parassita di questo spazio. Sei un parassita di quello spazio. Quindi chi sta ascoltando, diciamo consapevolmente o no, è capitato qua, cioè dove tutto è senza né capo né coda, e poi forse alla fine capirete molto peggio di prima di quello. Vi abbiamo confuso l'idea. Però quando mischiamo musica e cinema funziona. Funziona sempre. Funziona sempre. Allora, è un po' come gli zombie nazisti, funzionano. Dato che sempre. Però abbiamo iniziato da 40 minuti abbondanti, 40 minuti abbondanti. Sì, diciamo perché, la vexata questio. No, sì, si può dire adesso, no? Perché sì, è abbastanza sconclusionato rispetto all'andamento della trasmissione. Sì, il motivo per cui io sono qui, perché Danilo ha chiamato, perché vi abbiamo parlato di Danke, Capodanke e tutto quanto, perché l'anno prossimo, nel 2026, P38 Punk compiono 35 anni di attività. Stiamo già al lavoro sul... Quindi ormai 6 mesi. No, un anno... 6 mesi. Eh sì, 25. Però il 26 settembre noi, però, la data ufficiale, certo, ore 16. Per millesimo. Ore 16, sala A del Teschio, via della Manetteria 54A. 1991, 26 settembre, questa è la data ufficiale. L'anno dell'invasione dell'Iraq. L'anno dell'invasione dell'Iraq. E noi, non è che sia stata una regola, quella del trentennale forse neanche troppo era una regola. Però siete riusciti però a azzeccare la data. Lo so. Il trentennale. Cioè l'uscita è stato il 26 settembre. Sì, non sempre vi è riuscito. Non sempre, e c'è un motivo, cioè non è che le idee ci manchino. E tra l'altro poi quando i cazzi della vita, i cazzi del lavoro, i cazzi privati e tutta l'atmosfera cupa di guerre, bombe, morti, ammazzati che vedi, e penso si può dire il ceto politico trasversalmente più è offensivo dire idiota, deficiente, no, è offensivo dire politico, ci ritroviamo, aumenta degli stati d'animo, che sono gli stati d'animo di tensione, di ansia, e noi che non abbiamo i soldi per pagarci il terapeuta facciamo un disco. E però pure per il disco ci vogliono i soldi, anche perché da qualche anno abbiamo preso il brutto vizio di registrare bene in studio come Cristo comanda. D'altronde, invecchiando, si sa, ci si avvia verso la demenza. Diciamo che alla fine la resa deve essere rozza, ruvida, punk, però diciamo, per fare sta roba non è che la puoi fare per sbaglio. Sennò te viene cioè, tutti pensano che figo gli è venuta per sbaglio. No, per sbaglio raramente succede. E fonici, tecnici e tutto quanto hanno un costo. Noi abbiamo una cassa di gruppo, e per fare le cose nei tempi che ci siamo dati ci mancano 400 euro, non tantissimo. Che è il piano quinquennale, in realtà avete già cominciato. Noi già abbiamo cominciato nel 2022 a mettere da parte i soldini per fare il prossimo disco, tra live, magri diritti, Soundriff, magrissimi. Ci siamo pure prostituiti su Spotify. Peggio di così, insomma, non lo so. Andremo su X Factor. Peggio c'è solo quello. E però, mi auguro di no. Ce lo auguriamo anche noi. Questo dipende anche da chi ci aiuta. Abbiamo lanciato un crowdfunding. Andiamo. Questo è il nocciolo, la vexata questio della serata. Perché comunque, al di là del fatto che fonici, tecnici eccetera fanno un lavoro e devono essere pagati, ci sono alcuni che si sono offerti, come in passato, di farlo in forma volontaria, però siccome siamo più grandicelli noi, e comunque eravamo, siamo, e credo che resteremo. Quando si fa sta roba, comunque devi stare ai tempi delle persone che devi lo fanno. Devi stare ai tempi delle persone, ma soprattutto sai che c'è? Eravamo, siamo e penso resteremo comunisti, e come comunisti noi pensiamo che il lavoro vada rispettato e vada retribuito. Quindi, tra l'altro, per esempio, nell'ultimo disco ringrazio tantissimo Andrea della Banging Production, che ha realizzato in forma volontaria la post produzione del video, mia prima e ultima esperienza alla regia di MES. E appunto non vogliamo, benché questi compagni, che sono anche degli amici, dei fratelli, si siano offerti già di fare chi la copertina, chi l'editing, eccetera eccetera eccetera, comunque noi non possiamo dimenticare che queste cose ci campano. E quindi no, e poi c'è sempre il solito discorso: io te sto a fare quel lavoro, magari ci metto una settimana per fare quella cosa, e io quella settimana lavoro, perché poi molte volte sono pure lavori che non è che te comunque percepisci lo stipendio, no? Sono lavori a partita IVA piuttosto che a libero professionista, eccetera. Quindi se io lo faccio qua la settimana in un lavoro, e quindi in qualche maniera devo mangiare. E quindi, siccome ci siamo prefissi di volerlo fare nei tempi giusti e soprattutto rifiutando il volontariato, perché io appunto non potrò dimenticare Andrea, che cioè mi ha dato solo una settimana, mi ha dato la settimana di Ferragosto gratis. Certo. Quindi questa volta, proprio perché loro mi dicono per la causa, io dico no, per la causa io ti devo pagare. Certo. E quindi, per la prima volta nella nostra storia, chiediamo aiuto a chi ci sostiene. Detto questo, quindi 400.000 euro? No, 400 euro con quello che noi già abbiamo in cassa. Pensavo 1.000. No, 400 euro è quello che ci manca. Dai, allora, cioè, dai. Ma adesso facciamola alla commedia italiana. Da 400 euro. Ma guarda, vediamo un po' se posso chiudiamo qua il crowdfunding stasera. ovviamente guarda, anche 50 centesimi vanno bene, non è che tutti dovete dare per forza 10 euro. Qualunque spiccio, anche con l'ascolto di Spotify, cioè ci mettete nelle playlist, quelli sono, purtroppo va detto, sono soldi che vengono generati. Certo. E tutto quanto andrà a pagare il lavoro di chi sta dietro il la nostro piattaforma lavoro. Su veniamo alle cose più pratiche. Allora, trovate sul nostro sito www.p38punk.wordpress.com oppure sulla community del nostro canale YouTube, tutti i riferimenti alle tre forme di contribuzione per il crowdfunding: su PayPal diretta, su PayPal tramite Spotify o su Bandcamp, dove potete o lasciare una libera donazione o comprare con una libera offerta, tranne l'ultimo disco, tutti gli altri lavori. Tra l'altro, proprio su Bandcamp ci sta una roba, diciamo, abbastanza antica, ma abbastanza recente. Sì, appunto, siccome dall'ultimo disco qualche soldo è arrivato, ce lo siamo subito sputtanato per sistemare cose vecchie a cui affettivamente tenevamo molto, ma per mancanza di fondi non erano venute esattamente come volevamo. E quindi abbiamo proceduto al remix completo di un disco a cui io sono affettivamente molto legato, perché corrisponde a un passaggio anche drammatico, però importante, della mia vita, e non era venuto come doveva venire proprio per una carenza di fondi. È un po' come i bambini che quando hanno due soldi in più subito si tolgono lo sfizio antico. Sono andato in studio pagando chi invece si era offerto di farmelo gratis o quasi, e abbiamo fatto questo remix. Noi avete risistemato, sì, insomma, sì, di Vittime e Carnefici, che era il disco del 2008, la prima produzione, quindi, coproduzione, quindi insieme con l'Anfibio Records. Vittime e Carnefici, il disco del nell'anno del della prima grossa crepa nel della crisi della Lehman Brothers, del capitalismo globale, insomma. manca a farla apposta e... anche se in realtà la genesi parte dal 2007, sì. Cioè, che è un periodo in cui io esco, che è il da periodo della crisi della Grecia, poi tra l'altro, sì, però che si intreccia con crisi personali, dipendenze e cose del genere. Siccome sono storie che comunque mi sono lasciato alle spalle, si possono anche dire, tanto tutto quello che va detto è detto nei testi, quindi non c'è nulla di segreto, e ci tenevo molto a rimetterlo a posto. Quindi ce l'ascoltiamo. Che ci ascoltiamo? Vittime e Carnefici. Vittime e Carnefici, quindi P38 Punk, dal lavoro del 2008 che si chiamava appunto Vittime e Carnefici, remixato nel 2024, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, dai. peticiones al pueblo de Cuba. Mantente en sintonía con Radio Rebelde a fin de que escuches las orientaciones oficiales de nuestro máximo jefe, del 26 de julio, Fidel Castro Ruz. Aquí Radio Rebelde. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse. Tiger Basco, ma come il tabacco? No, vabbè, forse la prima parte si capiva un po' meglio, sicuramente, insomma, quella sembra un po' sardo. No, la parte quella in castigliano di Radio Ribelle. No, e dunque abbiamo parlato dei soldi, insomma, quello è importante perché ci siamo tolti il dente, la cifra, eccetera, quindi non è una cosa, una cifra inarrivabile, quindi basta un po' di sforzo, buona volontà, insomma, e chiediamo ancora soldi, però non stavolta per noi. Perché? Allora, prima dei 35 ci stanno i 34. Ah, ok, vai. 34 anni e abbiamo pensato di festeggiarli con un live benefit, ecco, nonostante ci abbiamo la lira, però il benefit è un viziaccio che non perdiamo e lo vorremmo, vabbè, come i tanti che poi hanno, come dicevi prima, hanno lavorato gratis per voi, comunque, cioè questa è una cosa su cui noi siamo molto orgogliosi, cioè non transigiamo, abbiamo tanti difetti, ma la ragione sociale dei P38 non è mai venuta l'economia meno, l'economia del dono, no? Perché c'è l'economia, appunto, come dicevi te, un'economia materiale che è fatta di lavoro, di tempo libero che viene, il tempo libero, il tempo di vita che ci abbiamo quando nasciamo, che dobbiamo in parte dedicare a fare più o meno quello che ci piace, ma più sovente quello che non ci piace di fare, e invece, appunto, poi c'è l'economia del dono, cioè il voler comunque fare le cose quando... Sì, pensavamo di devolvere la serata, comunque parte almeno della serata, agli orfani di guerra del Donbass. Stiamo per adesso in contatto, ancora non è confermato, quindi ripeto, non è confermato, però stiamo prendendo contatti con il... ho bisogno degli occhiali, temo, col comitato ucraino antifascista di Bologna, e, al cinema, che loro curano questo aspetto, loro insomma cureranno questo aspetto, perché è importante non solo raccogliere dei fondi, ma far sì che intanto vadano nelle mani giuste e poi arrivino a destinazione, che con tutte le sanzioni, i blocchi eccetera eccetera eccetera dovranno essere proprio fisicamente portati lì, quindi pure persone di fiducia, stiamo valutando queste persone di fiducia, però ecco, l'idea rimane quella di dedicare il nostro 34esimo compleanno con un concerto che faremo a Pomezia, al Circolo Gasponi Arci di Pomezia, una serata benefit. Sempre a fine settembre questo? Sì, più o meno. Il 27 settembre, il giorno 26, dopo, era per fare il sabato. Sì, diciamo che c'è la cabala, i numeri hanno il loro significato, però devono anche confrontarsi con la realtà del calendario, insomma. Sì, ci stiamo un po' coordinando anche con Alberto Fazzolo, nostro amico e da sempre impegnato per la causa del Donbass, nonché corrispondente della radio quando gli garba, insomma, ogni tanto. Sì, è un po' un jolly, se sì, per questo sì, sta sì, pure in un nostro video, nel video sì, di sì, Mess, sì, quindi fa la comparizione speciale nei panni di Levitan, che era il cronista che annunciò la resa della Germania nazista da Radio Mosca. L'abbiamo proprio agghindato noi a quella moda, pochissimi hanno colto la citazione. Va detto che l'idea è stata suggerita dall'esterno, però qualcuno ha colto la somiglianza. Ma lì eri regista, no, te, di quel video? Sì, prima e ultima volta alla regia, per mettere a frutto la mia sovravvalutata istruzione. Certo. Ho detto, c'ho una laurea in cinema, facciamo la regia una volta. Ci provavamo. Mai più. Non è, vabbè, dico, sono fatto, storie l'ho critica fatto del cinema. Lo fa, prima parlavamo di droghe, no? Dico, tanto per provarla la prendo, però mai più, insomma, sì, una cosa del genere. Ho fatto l'esperienza, sì, ma guarda, veramente un brutto trip. E diciamo che il più professionale lì è stato Fazzolo. Okay. Però l'abbiamo registrato, il video è stato girato nello studio, quello di Ennio Morricone. Tant'è che lo stendardo di DR che sta dietro la batteria in realtà copre lo schermo su cui venivano proiettati i film per la composizione delle colonne sonore. Lo vedi. Che cameo, che sì, nelle riprese di lato si può vedere lo schermo proprio. Allora, dicevamo, quindi rimaniamo casomai il 27 di settembre, se saremo qui, magari una telefonatina, una cosa per ricordarlo la settimana prima, la facciamo volentieri. E invece, ritornando alla domanda che ti volevo porre, cioè abbiamo parlato dei soldi, abbiamo parlato dell'iniziativa, però vogliamo dare un po' di, no, quando uno fa, dice, sto facendo il crowdfunding, qual è il progetto, a che punto state, che idee, allora, ci avete di questo nuovo disco? Abbiamo parlato della parte che riguarda Nanino Fatur, che altro bolle in petto? Allora, l'idea è quella di fare 4 collaborazioni, una Danilo Fatur, una dal ciclo di Betè e un'altra molto di sentimento, Enrico Capuano, che ci ha prodotto il secondo demo, la nostra prima registrazione su piste del 94, che qualcuno al cuore dello Stato, che qualcuno di recente ha anche messo su YouTube. Pensa, noi non lo possiamo nemmeno sentire, perché io ho il DAT ma non ho modo di sentire il DAT, sai, questi formati ormai scomparsi. C'hai, c'hai la cassetta ma non c'è il lettore. No, no, il DAT, cioè il, vabbè, il DAT era un formato di registrazione. Sì, però era una cassetta, era una, era una cassetta digitale. Sì, vabbè, questo lo diciamo a beneficio di ormai gli ascoltatori della radio non so più quelli della nostra età, cioè ci stanno pure, però sono tanti giovani. Quando gli dici... Però diciamo che era il master, ecco, quando e gli serviva. Gli dici, ma che starà a parlare? Serviva l'apparecchio apposito per sentire il DAT. Le musicassette quelle analogiche, e uno fatto sta cosa da paura invece che era digitale e che aveva una qualità molto maggiore, simile a quella, e che serviva appunto per fare i master molte volte. Sì, e noi dicendo abbiamo il DAT, che ci ristampiamo, che ci teniamo nella cassetta, abbiamo il DAT. E poi che ne sapevamo che non c'era più modo di sentire il DAT. E che, quindi chi si è comprato un disco all'epoca? Chi si è comprato la musicassetta che si vendeva qua da coso, da Disfunzioni, di cui forse sicuramente in archivio voi avrete una copia. Bisognerebbe che fino noi la tradizione è che la prima copia la portiamo a Radio Onda Rossa. Sì, l'archivio non sta più in radio, però, quindi, perché sta all'archivio dei movimenti ormai molte delle cose che stavano in radio. E qualcuno l'ha postata su YouTube facendomi tra l'altro anche scendere la lacrimuccia di commozione. Bene. No, il nuovo disco. Quindi Enrico Capuano, dicevamo. Enrico Capuano che ha detto lo faccio solo perché siete voi. Non so se era un complimento, l'ho preso per un complimento. poi il ciclo di Bad Day, il quarto per adesso ancora non è sicuro, quindi non lo diciamo. Non facciamo nomi. E sarà per forza di cose, per sempre i soliti cazzi della vita. Quante tracce più o meno? Non meno di 9, già 4 le abbiamo fatte. Durante questi sono tutti premix per adesso. Dico, durante questi annetti avevate nel frattempo, perché c'era l'usanza, no, dei P38 che comunque anticipavano l'uscita del magari del demo di 6 tracce, cioè del demo dell'EP di 6 tracce, eccetera, però veniva anticipata qualche uscita così. No, non abbiamo fatto uscita, abbiamo registrato a gennaio. E la traccia l'abbiamo affidato al ciclo di Betè. Però pure quella è un premix, per adesso non c'è, certo, nulla di mixato, perché poi dovrà essere tutto omogeneo. No, non sono bozze, sono le tracce finali, però vanno mixate, vanno messe su, che ovviamente il lavoro andrà fatto tutto insieme, perché sennò poi il suono non è omogeneo. Quindi per dare, sarà un lavoro appunto in cui Danilo ci salva. Ancora dovete registrare, diciamo, ancora qualche traccia delle 9. Delle 9 ce ne mancano 5. Le state provando già, invece stanno in fase di così, di creazione. Così. Ce n'è una che dovrebbe andare entro le prossime 2 settimane in registrazione. Guerra chimica. Il disco sarà le tematiche dai, questo è importante, le tematiche sarà... Mac, uno si aspetta comunque un po' di politica, no la politica c'è tutto in realtà, c'è politica, cazzi della vita, cazzi del lavoro, che poi anche questo è politica, anche la relazione interpersonale è politica, cioè alla fine noi ci spariamo, è una forma di relazione interpersonale, le nazioni si sparano, è una relazione interpersonale di massa. Ma poi non solo, io credo che ci sia una correlazione proprio diretta, alle volte invisibile, alle volte non percepita, fra quello che è il disordine mondiale, magari fosse il disordine nuovo, no, del disco vostro, fra diciamo la crisi delle relazioni mondiali e invece proprio la crisi, magari te la metti sull'interrelazionale interpersonale, io lo metto pure sulla crisi proprio di socialità, nel senso proprio di invece proprio psicologica, cioè internamente, crisi psicologica internamente, cioè per carità. Non è tanto, almeno non lo so, per noi per noi che abbiamo vissuto un certo modo di vedere il mondo, di vedere la politica, però vedersi appunto un genocidio in diretta online tutti i giorni, e comunque non, in qualche maniera non riuscire nemmeno, cioè tante cose per carità, tantini, però non lo so. Manca, no, quel tassello che eravamo in grado di mettere appunto magari 30 anni fa rispetto a certe cose, che magari non risolveva la situazione, però risolveva la coscienza, nel senso ho fatto quello che potevo fare. Che in realtà siamo diventati tutti più alienati, ci sentiamo tutti più distanti, guardiamo 24 ore al giorno massacri e rischiamo di perdere la nostra umanità o di impazzire, nel senso, quando sei sottoposto a un bombardamento tale di entropia sociale, perché il collasso di un mondo non può essere definito altro che entropia sociale, chiamiamola guerra, terza guerra mondiale a pezzi, chiamiamolo genocidio in diretta streaming, chiamiamolo operazione militare speciale, chiamiamolo la NATO che abbaglia le porte della Russia, chiamiamolo come ti pare, chiamiamolo bombardamento, suicidi nucleari, chiamiamolo volenterosi, in tutti i modi in cui lo possiamo chiamare, è un bombardamento continuo. Ora, chi come noi ha una sensibilità ne soffre tantissimo, e quindi ha due scelte: o sviluppa quello che in termini medico viene chiamato il cinismo professionale, no? Quello che i medici di pronto soccorso, gli infermieri di pronto soccorso, mia zia è stata 40 anni in pronto soccorso, ha dovuto sviluppare quella corazza per non impazzire. Andiamo se ricoglie sta frittata, insomma, alla Verdone, ecco. E va detto che dopo un trentennio in cui sembrava che la storia fosse veramente finita, tutto esplode dal micro al macrocosmo, e hai questa onda di violenza che ti sommerge, per forza di cose o sei veramente, si può dire, coglione in radio? Coglione che pensa alla finale del campionato, che pensa che sia importante quello, o sia il coglione che dice pure, per carità, perché ne abbiamo pure dalla parte nostra di coglioni, che dice: ma sì, stendeteli tutti, butta l'atomica. Rendiamoci conto, butta l'atomica. E questo lo dico pure a quelli per parte nostra: ti rendi conto cosa stai dicendo? Butta l'atomica. E è difficile mantenere così un equilibrio e una saggezza cinesi equilibrata, insomma. sì. È un po' questo qui, quindi l'hardcore, sì, l'hardcore, cioè il nucleo duro, sì, del disco, seguito, del trentacinquennale? È il seguito del disco del trentennale, cioè il disco del trentennale era il vecchio mondo che stava morendo, però appunto, come diceva Gramsci, il vecchio muore, il nuovo non riesce a nascere, in questo chiaroscuro si partoriscono i mostri. E dovunque mi giri io adesso, ma dall'angolo di strada al Parlamento, soprattutto europeo, vedo mostri. E quindi è un album che forse sarà decisamente più cupo degli altri. Sì, no, diciamo quello che è sorprendente. Quello che ci salva è Danilo Fatur. Quello che ci salva è Danilo Fatur, che è un altro che ha una saggezza di tipo orientale. Che è appunto uno sciamano metropolitano. Lo sciamano metropolitano, e che comunque riesce a convertire appunto in sarcasmo, in allegria, in prendiamola comunque a ridere, per quanto sia pesante la situazione. Sì, è una situazione in cui percepisci una fine imminente, ecco. Sì, è come dici te, insomma, è un'epoca di passaggio, e speriamo che ci sia un passaggio, perché appunto poi lo dicevamo già nelle ultime occasioni, non so se proprio era ormai 5 anni fa, no? Che diciamo questo mondo nuovo che nasce, però potrebbe pure non nascere, perché comunque c'hai questa, come dicevi te, buttiamo la bocca, cioè c'hai questa riserva di ordigni nucleari che in realtà, diciamo, sì, evidentemente non sono stato chiaro, cioè io no, non è che dico che è un coglione chi dice Trump butta la bomba. Io dico che è un coglione anche chi dice sì, butta, cioè certo, parte mia certo, butta certo la bomba, ma o no, chi ma dice non, Putin ma butta pensa, la bomba. Ma non ci pensano proprio, il problema è proprio quello. Forse no, forse da noi in Europa esatto, sì, forse la von der Leyen sì. Il problema non è, diciamo, mettiamolo così, chi è che meno male che ce l'ha. Non dico vince, però sta oggi in una posizione di crescita, no? Che interesse ci avrebbe? Il problema è proprio di chi è debole e che no, potrebbe dar de matto, questa è la storia. Il problema è che noi ci siamo abituati a vedere queste cose come se fossero un certo, videogame. Certo. Sarà che noi il massimo che vedevamo di violenza sui videogame era Green Beret. No, io ti voglio dire, cioè, delle ultime cose, comunque, bombardare un sito nucleare è una cosa di una gravità che se fosse successa, che ne so, 10 anni fa, ci sarebbe stata una sorta di sommossa anche fra gli intellettuali di sinistra, ma no? Soprattutto un sito nucleare arricchito al 60% quando quello di Chernobyl sì, esatto, era arricchito al 16%. Sì, mi al pare. 16%. No, non so, sì, è possibile. Però insomma l'uranio delle centrali è una percentuale. Vabbè, poi abbiamo gli esperti, però è una percentuale molto arricchito bassa. Cioè, bisogna, tra virgolette, per assurdo, e questo lo dico per assurdo perché a me umanamente le teocrazie fanno cagare, però bisogna ringraziare la saggezza degli iraniani che hanno preso, hanno detto sì è bello, avete distrutto, e l'hanno portato via da un'altra parte. E perché tutto dire, perché cioè a me non è che l'Iran stia particolarmente simpatico, però Israele è peggio. Sì, vabbè, poi appunto non è una scala di valori, è proprio che stai fuori dai capoccia. Cioè che appunto è il, come si dice, il Kosterlitz portato alla massima potenza, no? Cioè è che proprio dove finisce la politica inizia la guerra. E non c'è più voglia di fare politica. No. Anche perché noi non abbiamo più politici. Esatto, non politica nel senso di diplomazia, perché già lì staresti a un punto, a politica nel senso delle convenienze, delle opportunità, appunto se vuoi anche del raggiro, no? Cioè, mi sembra che ci sia. Cioè, oggi guarda, c'è un Trump che mi ricorda un Onorio, cioè il peggiore imperatore del tardo antico, cioè uno che le sparava grosse. E invece di trovare soluzioni politiche creava disastri. Il sacco di Roma lo si deve proprio a lui. Sì, vabbè, poi questi sono i vari parallelismi sulla crisi dell'impero, però insomma senza andare poi a vabbè, io direi una cosa invece, sentiamoci una cosa, che abbiamo parlato fin troppo. Crisi di valori, quindi dei cari vecchi disciplinata. Questo eccesso di poesia, questa greve ripetuta all'italiano. andiamolo a votare. Prendete posto, amici, si va ad incominciare. Una preoccupante crisi di valori. Una preoccupante crisi di valori. Advice for young people in Europe. I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. It's a new one every week. Free Europe. From right-wing extremism. Free Europe from fascism. Free Europe from racism. Free Europe from imperialism. When you do this job, as soon as you do this job, Gaza will be free, Congo will be free, Sudan will be free, Iran, forget about us, don't worry about it. Free Europe. Così anche per così troncare poi le nostre discussioni, i nostri così pensieri cupi che potrebbero però sfociare facilmente nel delirio, perché appunto bisogna avere una grande lucidità, poi no, una grande saggezza ed equilibrio. Tant'è vero che pensavo che proprio quello che un tempo appunto eravamo noi gli estremisti, no? Quelli che comunque avevano posizioni nette, estreme, non concilianti, oggi e lo abbiamo quasi moderato, no, e li abbiamo ancora, cioè noi siamo rimasti su quella posizione, noi siamo, no? Ortodossi, inconcilianti su tanti aspetti della, ma però poi appunto su altri aspetti, no, cioè sul, era come se volessimo che ne so, andare a fare, per dire, i scontri di piazza piuttosto che la litigata o a botte con i fascisti, no? Però a un certo punto capivi che c'era il momento che bisognava fermarsi, che bisognava tornare indietro, che era finita la storia, no? Sì, qualche volta qualche ceffone qualche bisognava darlo, qualche volta si piava, insomma, però qualche volta si piava, però insomma tutto rientrava in un, in una semantica, vedi, no? In una grammatica. La questione è che noi siamo comunque ortodossi, sento parlare un Calenda. Calenda, ragazzi, è un estremista, è un fanatico. Cioè, gente che non ragiona, cioè, chi ha una fede ha dei dubbi, cioè, anzi, il dubbio mette alla prova la propria fede su una, certo, visione del, certo, mondo, certo. No? Non abbiamo fa scogitare strategie, fa cambiare direzioni, no? Fa, sì, noi non rivedere le proprie convinzioni, no? certo. Quella è propria del fanatico. Il fanatico non ha dubbi, certo. Il fanatico va dritto per la sua strada. Il neoliberismo quello è diventato, no? È diventata una ideologia e delle più, cioè, lo è sempre stata, però fino a che aveva i favori del pubblico, come dire, no? Era vincente in qualche misura, poteva grugiolarsi nella sua, anche nella sua lungimiranza, nella sua, chiediamoci quanto può essere lungimirante un'ideologia che ha la sua pietra angolare in un Adam Smith che, cito testualmente, noi per ottenere il massimo dal nostro macellaio, dal nostro commerciante e dal nostro calzolaio non dobbiamo contare sulla sua integrità, sulla sua competenza e sulla sua onestà, ma sulla sua avidità. E che cazzo di mondo, la giungla, insomma, oh. Vabbè, poi comunque sì, sono, sì, cioè, nel senso che, guarda, cioè, noi abbiamo costruito gli ultimi 30 anni sui deliri di quest'uomo, Allora, sui deliri sul, di Adam Smith. Molto molto più banalmente, diciamo, torniamo nella fabbrica, andiamo a vedere il mondo reale fatto nella fabbrica. Il capetto che è il più furbo, quello che fa più carriera, che è più capace di trattare con gli operai, è quello che le sa tutte. Cioè, è quello che era nel fare il proprio lavoro, conosceva tutte le strategie per non lavorare, per far lavorare gli altri. E quello è il capo che è in grado di essere il più bravo frustatore, perché conosce benissimo. Da qui tutte capo. Esatto. Conosce benissimo tutte le alienazioni che si subiscono appunto nel mondo del lavoro. Felacuti invece, cioè Felacuti, scusa, Seuncuti, figlio minore di Felacuti, fa questa robetta al concerto, insomma, e ci fa vedere il mondo ribaltato dall'altra parte, no? Dello specchio, del giardino ordinato. E lo trovo formidabile questo pezzetto che fa durante i suoi concerti in Europa e negli Stati Uniti. In Europa dice Free Europe, negli Stati Uniti dice Free US, però insomma è forse proprio quella la chiave, quella di dire, ecco, è un po' quello che poi si sente dire un nigeriano come lui, un africano, no? Quando sì, che bisogna liberare il Congo, bisogna liberare il Congo. Il congolese, si stanno liberando da noi, cioè lo stanno facendo benissimo. Ma che volete? Da soli, no? Si stanno liberando da noi. Cioè, e lui ci dice Free Europe, cioè guardate i cazzi vostri, insomma, guardate quello che ci avete dentro casa. Guardate il vostro imperialismo, liberate dall'imperialismo e vedete che Gaza sarà libera, il Congo sarà libero, l'Iran sarà libero, bla bla bla. Cioè cominciamo a fare questo ribaltamento, forse. Ma è ora di dar fuoco al giardino ordinato, eh. Non sarebbe male. Sì, diciamo non adesso perché fa troppo caldo. fa disastri, diciamo, gli incendi lasciamoli là per questo periodo. Magari aspettiamo questa regola. Sarà che poi io il pollice nero, il mio giardino, esatto, lo tengo malissimo, tutto è meno che ordinato. Rispettiamo la regola che finisce la siccità a settembre, facciamo sta roba, perché d'estate se noi incendiamo pure noi stessi. Per la gioia dei miei gattoni che ci abitano. I miei ciccioni che si sono autoadottati. E a loro piace così, disordinato, il mio giardino. Sì, ma infatti bisogna forse anche lasciare andare un po' avanti le cose. 34 minuti, che dici, Marco? Che vogliamo fare? Vogliamo cominciare a chiudere baracchi e burattini? Quasi. Quasi. Cosa altro dobbiamo dire? L'importante è mandare, soprattutto. Cosa avevi? Cioè, abbiamo programmato molto, poi in realtà non abbiamo. Sì, non so se quel pezzo riesci. Ah, quello lì, il più difficile. Il più difficile. Sì, c'hai tempo, Passion of Lovers the Bauhaus. Sì, sì, va bene. E poi c'è pure Vittime e Carnefici. L'abbiamo sentito. No, quella sentito. Già l'abbiamo detta, manca proprio quella. Sì, va bene. Che parla. Che pensa, quello è un pezzo del 2001 che noi scrivemmo immediatamente dopo Genova, non sapendo quanto oggi sarebbe stato attuale. Certo. Anche all'epoca quell'album con Ogni droga necessaria è un album estremamente cupo. Questo verrà cupo, ma con toni anche più arrabbiati. Non ma ci saranno cover? Perché poi alla fine sempre no, qualche cover c'è. Insomma. Non credo. Non credi, stavolta è eccezione. 35 anni siete cresciutelli e dici non. Beh, non abbiamo fatto. Non fate più la cover dei 30. Neanche no, in quello dei 30. Quello dei 30 secondo me c'è. No, non c'è. Non c'è. Non c'è nessuna cover. Vabbè, diciamo. No, non c'è una cover, ci sta via Trampunk di. Cioè, Danilo, insomma, ha fatto degli ammiccamenti anche. Anche Danilo è uno sciamano, certo, quindi certo. Noi siamo anche Notav, no? Era su un'aria già sentita. No, richiama, ma non è. Cioè, richiamo è voluto a No Fan, certo. Però non è No Fan, proprio certo. Sono altre note. Va bene, dai, allora riascoltiamoci da capo Bauhaus e preparo l'ultima traccia e poi vediamo se ci riusciamo a preparare l'ultima certo, traccia. Certo, ci riusciamo, dammi il tempo che è necessario. Yeah. الولد فلسطين ناجينا جايين والعز انولد يا قدس ناجينا حنا الشعب المديني جايينك يا فلسطين حنا الشعب المديني جايينك يا فلسطين gesto dell'eloquente gesto della mano raccogliamo le idee e arriviamo, esatto, schiocchiamo le dita e arriviamo al punto. Quindi P38 Punk lanciano la raccolta fondi, il crowdfunding a golletta, come la golletta, scollettiamo. Sì, accattoniamo per arrivare alla modica somma di 400 euro. Una robetta così entro un par di mesi, insomma. Ma allora su PayPal abbiamo 15 giorni, su Spotify Bandcamp un po' di più, è finito praticamente, però insomma la cosa sarebbe prima della fine dell'estate, insomma, raccogliere prima della fine dell'estate, così possiamo poi dedicarci nell'inverno con i nostri tempi da burocrazia sovietica a fare i pezzi mancanti, alla realizzazione, e soprattutto là quando che ci sarà, lì è il momento delle vere tribune politiche nel mixaggio perché lì poi ciascuno vuole dire la sua, no, io mi voglio sentire così, volano parole grosse, sai che parolacce volano, e paroloni durante il mixaggio. E quindi vabbè, questo è quanto. E, concerto il 27 di settembre. Sì. Risentiamoci, teniamoci in contatto, risentiamoci, speriamo. Nonostante che... siamo qui ad accattonare, abbiamo la faccia tosta di dire che il 27 comunque è un benefit. No, esatto. Non sempre che non accadano tragedie, e questo è all'ordine del giorno. Che ce n'è una? Speriamo, diceva, in quel caso ancora... speriamo di essere all'epicentro dell'esplosione facendo qualcosa di molto piacevole. Certo. oppure in Nuova Zelanda, perché è l'unico posto dove forse, o al Polo Sud, insomma. O in Groenlandia. No, quella se la vuole prendere Trump. Quella se la prende Trump. No, vabbè, ma quello, vabbè. Scherza. Sì, no, vabbè. Non aveva preso le pasticche, no. Le pilloline rosa. In Groenlandia ci andai ben sette anni fa e se la stavano a comprare i cinesi. Allora adesso andiamo in Groenlandia. Non lo so se Trump trova ancora. Poi mi hanno detto no, non è vero, perché praticamente poi l'affare non è andato in porto, è cambiato governo e non hanno aperto più i cinesi. Però se la stavano veramente a comprare i cinesi, era pieno di uomini di affari cinesi, anche di cinesi che andavano in vacanza in Groenlandia. E cioè quello si vedeva, nonché i danesi, che è casa loro, insomma, cioè ci vanno in vacanza, la montagna dei danesi, loro ci hanno. Sì, che poi la Groenlandia ha uno status strano, perché teoricamente non è nemmeno parte, è proprietà della corona. È tipo la tenuta di Capocotta, capito? No, ma tipo le isole di Man, le isole Jersey, no? Che lì è ancora più divertente. La tenuta di Capocotta, che è del Presidente della Repubblica, lì la Groenlandia è del re, c'ha sto parco. No, guarda, io ho scoperto questa cosa sulle isole Jersey e le isole Man, sono proprietà della corona britannica, ma non per modo di dire, perché in Groenlandia c'è una larghissima autonomia. Sono rette da un balivo e uno sceriffo di nomina reggia. Cioè Robin Hood, lo sceriffo di Nottingham. Te vai a scuola, il vicino di banco, ma sai, mio padre è il balivo, fa il balivo, una vita. C'hanno la lira tornese ancora, ma è meraviglioso. Per me, che campo di alto medioevo. Queste reminiscenze carolinge. Sì, queste enclave di epoche passate nel presente, no? Di. Va bene, dai. Sì, no, spero di poter costruire una balista e tenermela in giardino, ecco. Allora, poi qui, sì, vabbè, questo è il Marco in versione frontman e cantante dei Pink 38, però speriamo di averti anche in altre. Io c'ho sempre questa puntata sulla fantascienza da fare con te, con Boll e il fantasma. Sì, perché le altre due ci siamo divertiti tantissimo. Le altre due ci siamo divertiti. Abbiamo fatto quanto? L'altra volta alle 3 di notte. Sì, non so. Non finiva mai, sì, era una droga. Il povero Marfori che proprio non voglia più, voglia mandatemi a casa. Abbasta ora proprio. Ma quello, guarda, per me parlando di cinema, tra quando vuoi. Cobol ha fatto la rassegna, adesso ha curato lui la rassegna, quella al Forte, no? Di cinema di fantascienza, in cui ha proposto, tra l'altro, aiutami tu. Non lo so, che ha proposto. Mi devi aiutare. Tarkovsky, Stalker. Filmetti di un certo impegno, per aspera ad aspra, appunto, cioè la brutta copia di Tarkovsky che ho iniziato a vedere finalmente su YouTube in versione inglese, mi pare c'è, però l'ho iniziato a vedere in orario piuttosto di palluna di notte, per cui alle 10 è finito il film. No, io ci ho messo fine degli spettatori 5-6 step per finirlo, perché poi tragicamente quel film mi faceva sempre addormentare, quindi almeno Tarkovsky c'ha l'eleganza, lo stile, quello è uno scimmiottare, un Solaris in brutta copia. Personalmente a me Per aspera d'astra non è piaciuto, quindi sarebbe una cosa interessantissima invece con Cobol, vedi, anche con queste differenze. Vabbè, dai, cercheremo di organizzare magari la prossima stagione, ormai mancano due puntate. Sempre poi, appunto, facendo il parallelo con Solaris, il dramma della solitudine attraverso lo spazio, no? Quindi questo spazio che dà corpo alla solitudine interiore. Ma secondo me troppo americano per Asper ad Astra, non lo so, troppo slegato da, dal... Per me il cinema americano di fantascienza è Take Me to Your Leader, è quello proprio anni 50 della cosa di Ultimatum alla Terra, oppure l'invasione degli ultracorpi, insomma. Oppure paradossalmente quello di contestazione un po' alla John Carpenter, che rovescia il facendo il remake della cosa, film che nasce come film ferocemente anticomunista, film maccartista, lui ribalta completamente il paradigma e ne fa un film antiamericano, ferocemente antiamericano. Vabbè, ho lanciato la pietra dello stagno, dai, vediamo se riusciamo a organizzare la cosa. Ma perché, sì, ma poi con le colonne sonore, con poi, la musica soprattutto, cioè quello che è almeno la mia tesi, da tutta da confermare, è che appunto oggi parlare di fantascienza, allora, può vuol dire due cose: o parlare di ucronia, cioè di cose che non sono successe, che avrebbero potuto succedere, non so, nel 2001 di sera nello spazio, no? Cose che erano troppo avanti probabilmente, oppure cose che sono ormai proprio superate, cioè la realtà 2000, ha superato 2013 nettamente. Funga da Los Angeles, cioè sì. Sembra proprio il giuramento di Trump, no? Sì. Cose che hanno, che la realtà ha di molto superato quella che era l'ambizione così fantastica, no? Va bene, dai, basta, diamoci un taglio. Chi vuoi salutare per ultimo? Ho salutato tutti. Tutti, soprattutto chi è privato della propria libertà personale. Bravo. Noi non ci risentiamo mercoledì. E chi sta sotto prossimo, le bombe? Chi sta sotto le bombe? Chi sì, infatti. L'altro giorno si diceva a Roma si è provato con questa roba qui del distributore, oggi proprio andava in onda la registrazione di un'assemblea che proprio riguardava questo incidente, chiamiamo così, sicuramente evitabile, che è capitato qua vicino, insomma, su al distributore del gas, no? Che è esploso di mattina, dando quello che poteva essere appunto una parvenza di ciò che vivono tutti i giorni in altre parti, si vive tutti i giorni in altre parti del pianeta e sempre in più parti del pianeta, insomma, questa guerra che si esprime, che si espande a macchia d'olio di qua e di là, in cui noi mandiamo avanti gli altri perché a noi ci viene da ridere, cioè, ricordiamoci, io non ho nessuna simpatia per il governo ucraino, perché per me è un governo fantoccio paranazista, però provo profonda compassione per quella popolazione che è stata mandata al macello da noi per i nostri interessi. La guerra dei proxy, insomma, la guerra fatta attraverso, sì, usati esattamente come proxy. Vabbè, ed è ancora più degradante questo, anche perché appunto poi in realtà, a parte qualche esaltato, la grossa difficoltà dell'Occidente, di questo riarmo paventato, di questa riconversione bellica, è proprio che chi ce va? Ma proprio, quanto di più lontano possa passare perché, nelle fantasie, cioè, della maggioranza. Parliamoci chiaro. Quindi, se a noi ci mandano al fronte contro i russi o contro i cinesi o contro i nordcoreani, cioè, tu lo sai che alla prima occasione io passo dall'altra parte della barricata. Sì, questo è nel migliore dei casi. Il peggiore dei casi, che uno non lo può fare, scappa. Ma ci mangio un po' io. Scappo, ma poi mi arruolo dall'altra parte. Guarda, io, che è pure quello che sta succedendo tanto in Ucraina, perché poi ci stanno altissimi livelli di disastro. Ma sì, i video li vediamo tutti, di gente che è caricata a bastonate così sui furgoni dei reclutatori. Per fortuna, piano piano, la popolazione sta cominciando anche a reagire. La fortuna ha retto, perché invece c'era un inquadramento ideologico abbastanza, cosa che qui manca, insomma, qui veramente è una piccola e una piccola nicchia. I Calenda sono veramente pochi, insomma, o comunque i Calenda poi quelli che chiacchierano non sono assolutamente. Allora, quelli il 17% dei giovani al primo voto alle ultime elezioni ha votato Calenda. E questo dà l'idea della gravità della situazione, certo. Ma te, secondo te, i giovani che hanno votato Calenda andrebbero a abbracciare le armi? So talmente stupidi che penso di sì. Potrebbe essere. È a rischio. Sì, c'era, guarda, c'era l'atte suetiva. Guarda, c'era il Greco e Ligga che faceva: ma se io ti dico che te butti al fiume, te te butti al fiume. E sarebbe un rischio. C'è stava quel personaggio istrionico, come si chiamava, che te lo trovavi alle manifestazioni avvolto nella bandiera ucraina. Uno che aveva quel ragazzetto. Oddio. Non frequento. Oddio, come si chiamava? C'ha sto nome vabbè, strano. No, lasciamolo così. Biondino. Vabbè. Quello che così, tranquillamente, alle manifestazioni di Calenda propose di bombardare nuclearmente la Russia, come se niente fosse. Vabbè, ma lasci là, non è che. No, sto cercando perché c'è un nome da coglione. Come Leopoldo Mastelloni che mi fa. Leopoldo Mastelloni, no, lasciamo cadere. Allora, Leopoldo Mastelloni intanto si è preso una grossa rivincita. Che noi lo vituperi, anzi, tu lo vituperi, perché no, io lo lascio massima dov'è. Stima. Lo lascio dov'è. Nell'ultimo, cioè non nell'ultimo, ma nel penultimo film di Pupi Avati, Dante. Leopoldo Mastelloni è stato usato per il personaggio di Bonifacio VIII, cioè tu pensa la nemesi, il contrappasso storico e culturale di mettere nel ruolo di uno dei papi più reazionari della storia la prima persona a essere stata bandita da ogni televisione possibile e immaginabile in Italia per aver detto la prima bestemmia in diretta TV a Domenica Inn. E per essere proprio palesemente equivoco, come dire, all'epoca se lui detto, nega, no? Però cioè, no, vabbè, sono però, pure fatti suoi. No, ma è un cioè, modo di, cioè, modo di fare provocatorio che all'epoca aveva il suo perché, no? All'epoca c'era il suo perché, bisogna vedere pure quanto era caricato, ma poi ripeto, sì, in finale cioè, sono fatti quello, suoi quello, cioè, quello che ha scandalizzato è stata questa bestemmiona in diretta che pure catartica a un certo punto. Però lasciamolo lì, Leopoldo Mastelloni e il biondino, lasciamoli da una parte. 25 o'clock, parliamo. Ma mi ricordo proprio come si chiama il biondino. Niente. Ma girava, sembrava angelato, avvolto nella bandiera ucraina e veniva a rompere le palle a tutti. Buonanotte. Guglielmo, no, in intro qualche cosa. Mannaggia, mo ricordo. Buonanotte. Buonanotte, però no, la verità è che non ho i soldi per l'avvocato, quindi non posso dire il nome. Dai, allora ci risentiamo, dicevamo, fra due settimane, non la prossima. Un saluto importante a tutte e a tutte coloro che ci ascoltano in condizioni di libertà personale, carcere di distanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, bombe, decreti amministrativi, bombe che cascano in testa da una parte e dall'altra. Noi siamo con loro, con proprio con quel sorriso, diciamo così, sarcastico, che proprio ci regala Fatu. Ci regala Fatu. Dai, a risentirci. Bella a tutti e a tutte. Noi a ce ne andiamo. A tutte, indovina ciao. Dove? Sotto la luna comunista. With me, yeah, and bother if you want to join in. Be- thinking tonight we'll win. Let it begin tonight we'll win. I'll share our dreams under a communist moon.